Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocuis e separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, 8 e 20 minuti, caro Oscar. Eccoci qua, in questo 12 luglio che ti ha visto portare un attacco proditorio a noi amici dei gattini. No, sto scherzando, figurati. No, per questa vicenda della cooperante. Dai, ho fatto un passaggio un gattino un'infermiera, ma infatti secondo me hanno un po' esagerato. Un'infermiera, ecco, che è stata licenziata perché ha portato un gattino randagio. Ha dato un passaggio sul furgone. Sul furgone degli anziani malati di Alzheimer. Un paese di matti. Va bene, detto tutto questo, oggi, oltre e prima e con più importanza e più rilievo, bisogna pregare per, oltre a San Giovanni Gualberto, va bene, che all'inizio del 1000 fonda i Vallombrosani, nobile fiorentino, benedettino, e oltre a Santa Veronica, la tradizionale pia donna che dopo essere stata graziata dal Signore toccando il mantello avrebbe impresso su un lino il volto di Gesù mentre purtroppo ascendeva al Golgota portando la croce, di qui il famoso telo della Veronica che sarebbe stato custodito a Roma, eccetera eccetera. Va benissimo, questi sono i santi del giorno, ma il santo più importante ce lo ricorda il ministro dell'economia Padoan, perché ieri in un attacco giustamente di fede, nel tentativo di ricordare a tutti che il destino dell'Italia è appeso anche alla protezione dall'alto, vista le nostre difficoltà, a una certa domanda ha ricordato a tutti che bisogna essere fedeli, e così ha detto. Due domande, se posso, ministro. La prima è: ma lei cosa pensa davvero di questo 2,5? Madonna santa. Madonna santa cazzo, il ministro Padoan ieri ha detto in tre parole: Madonna santa cazzo, tutto quello che c'è da dire sulla proposta di Renzi. E io devo dire, considero questo invito a pregare la Madonna santa una delle espressioni più alte che si possano avere, o più l'imprecazione, no, perché pregate, cioè non resta nient'altro da fare che pregare, però dice tutto, per così dire, ecco, tre parole semplici, no? Che gli sono uscite così, insomma, alla ennesima domanda. Dicono tutto. L'uomo al quale in realtà poi tre anni di governo del PD devono la credibilità del negoziato in Europa, due punti di PIL di più deficit concessoci dall'Europa, che si dica l'austerità e così via, a un certo punto anche Padoan allarga le braccia e dice: ragazzi, fate un po' quello che volete, dopo le elezioni sfasciate tutto, fate quello che volete, non con me ma vendete voi, perché io a un certo punto la faccia non ce la metto più. Tre parole, sì. No, sì, semplici e sintetiche, per dire tutto. Ricordo solo che nel 1962 oggi esordivano i Rolling Stones in un piccolo club di Londra, non proprio gli ultimi nella storia della musica, e oggi, oimè, non voglio dire quanti anni fa, allo stadio di Wembley, chi c'era se lo ricorderà per la vita, e io per fortuna e per caso ero lì, il mitico concerto dei Queen, era il Magic Tour dei Queen a Wembley, che poi diventerà uno dei più fantastici album, e tutti quelli che ricordano Freddie Mercury sanno quella sera che cosa fece. Auguri ad Antonio Cassano, che torna a essere campione della Serie A italiana, ma e a Simona Bonafè del PD. Sì, torna a Verona Cassano, non la Bonafè. Allora, oggi decidono, il governo decide se porre la fiducia sul tema del decreto dei vaccini, che tanto fa discutere, visto che ci amano ancora molto, ci scrivono tanti in questa mail bombing che continua, non solo nei nostri confronti ovviamente, del movimento Free Vax. Il decreto vaccini, devono discutere se mettere la fiducia. Intanto c'è stata qualche modifica, non saranno più 12 ma 10 le vaccinazioni obbligatorie. È stata anche un po', come dire, smussata la sanzione per i genitori che si rifiutano. La multa è da 7.500 a 3.500 e poi, Oscar, scompare tutto l'accenno alla patria potestà. Effettivamente questo non, l'avevamo detto fin dall'inizio. Non c'è più, insomma, è un punto anche un po' forse esagerato. Comunque, il tema fa discutere molto, il tema c'è. E ne vogliamo parlare con il professor Alberto Mantovani, che è direttore scientifico in Humanitas, insegna anche patologia generale, ha scritto anche un libro per Mondadori proprio sul tema dei vaccini, dal titolo Immunità e vaccini, perché è giusto proteggere la nostra salute e quella dei nostri figli. Professor Mantovani, buongiorno, eccoci. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Allora, il tema è questo. Lei, anche in vari interventi sulla stampa, come editorialista, dice oggi ancora più di prima lei è favorevole e porta avanti l'idea dell'importanza delle vaccinazioni. Oggi ancora più di prima, perché vede anche lei, insomma, che c'è ci sono dei movimenti, ci sono persone che mettono in dubbio questa cosa. Perché ancora più di ieri lei è convinto dell'importanza della vaccinazione? Dobbiamo ricordare che siamo in emergenza. Questo non lo dico io, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che più volte ha richiamato l'Italia. Bisogna anche dire, e io me ne vergogno un po', il Center for Disease Control degli Stati Uniti ha dato un avviso a chi viaggia in Italia dicendo che siamo un paese a rischio. Perché siamo un paese a rischio? Ad esempio, negli ultimi mesi noi abbiamo avuto più di 3.000 casi di morbillo, il 30% sono stati ricoverati, 180 inferiori all'anno. Abbiamo avuto 3 morti nell'ultimo anno e mezzo di morbillo, e io penso che abbiamo avuto solo 3 morti grazie alla competenza degli operatori sanitari in istituzioni che si occupano di bambini. Quindi noi siamo in una situazione di emergenza e di emergenza certificata. In questa situazione io penso che sia più che giustificato introdurre l'obbligo. Penso che l'obbligo vada accompagnato da un'attività di formazione e di informazione come quella che stiamo facendo del pubblico su questo tema. Perché forse è proprio l'informazione che molti rivendicano, a dire cioè c'è un obbligo, c'è un decreto che impone dunque 10 vaccini, non più 12, ma forse appunto c'è questa mancanza anche di fiducia, di rapporto con il medico di base, forse questa mancanza di informazione molto diffusa e capillare, è questo che manca secondo lei? Ma io penso che mancano una serie di cose. Innanzitutto io penso che i vaccini sono vittima del loro successo, nel senso che noi non ci ricordiamo più come cos'è un'epidemia di poliomielite, ma la poliomielite c'è, non c'è solo perché ci vacciniamo. Un mio collega austriaco recentemente mi raccontava l'esperienza di vedere un bambino con pertosse che apparentemente sta bene, occhi azzurri, ti sorride e improvvisamente smette di respirare. Ecco, ricordiamo che abbiamo avuto un morto di pertosse, morto nello studio di un pediatra in questo paese. Quindi diciamo ci siamo dimenticati di cosa sono le malattie infettive. Poi ci sono le menzogne e le menzogne per esempio sul tema del rapporto fra autismo e vaccini, più recentemente le menzogne legate al rapporto fra vaccino contro il virus del papilloma e sindrome di stanchezza. E poi si è diffusa l'idea che la malattia naturale faccia bene. E infine ci dimentichiamo dell'elemento di solidarietà, nel senso che mentre noi stiamo parlando ci sono 1.500 bambini con cancro che hanno un sistema immunitario compromesso. Questi bambini dipendono per la loro protezione dal fatto che intorno la comunità sia vaccinata. Qui Oscar, vedi, anche l'ascoltatore forse ci pone via messaggio un tema: i vaccini, non ci si fida più dello Stato. Cioè, questo senso di sfiducia effettivamente è diffuso. E poi da... Io però non lo so se sia lo Stato, ma dello Stato, delle istituzioni. Cioè, io me le sono lette tutte, questo pacco di indefinibili cose che ci stanno mandando e continuano a mandarci, e oltre agli insulti perché non sappiamo fare il nostro mestiere, oltre agli insulti per definirci ovviamente orgogliosi depositari di una visione della quale non avremmo fondamento, cioè, ecco, quello che mi colpisce, al di là dei troll che ci sono, anche se poi ci sono nomi fisici, perché poi se uno va a controllare non è vero che sono tutti nomi fisici, quindi c'è un'organizzazione dietro questa cosa, come è evidente. Però a me colpiscono tre argomenti, dei quali vorrei sapere l'impressione del professor Mantovani. Il primo è una impressione diffusa in disfiducia, prima che nello Stato, verso la cosiddetta scienza organizzata. E questo per me è un problema, perché qui non si tratta di ignoranza. Molti dicono: ma come, noi siamo cittadini informati, laureati, eccetera eccetera, proprio per questo abbiamo imparato a diffidare di chi dice che ci vogliono 10 o 12 perché poi passate da 12 a 10 in una settimana vaccini obbligatori. E alcuni dicono: non per tutti. In realtà l'argomento scientifico della copertura scesa sotto il minimo per evitare il rientro delle patologie è allineato. Quindi come facciamo a crederci? E quindi c'è un problema verso la scienza. Secondo, c'è un problema verso la comunicazione. Cioè, si dice: queste sono campagne, improvvisamente è diventata una cosa così e in pochi mesi. E no, se fosse un dato come tutti dite, sarebbe un dato evidente, nazionale, permanente. E invece è scoppiata in pochi mesi questa cosa. Terza cosa, dice, ma e questo però è facile rispondere, però c'è, perché vogliamo diventare l'unico paese con una strategia così aggressiva, coatta? Ecco, questi tre argomenti mi sembrano, professor Mantovani, dalle migliaia oramai di mail che abbiamo ricevuto in 72 ore dopo Pesaro, i più ricorrenti. Che ne pensa lei? Parto dalla coda e poi mi aiutate se dimentico. Pensi i primi. Tutti e tre sono tre punti molto importanti. L'ultimo punto: è chiaro che noi non avremmo bisogno di obbligo se avessimo una buona copertura vaccinale. Faccio un esempio molto concreto. In Svezia non c'è obbligo vaccinale, ma c'è una copertura vaccinale del 98%. Quindi l'obbligo è necessario nella misura in cui non abbiamo i bambini. Abbiamo visto due bambini con leucemia che avevano più dell'85% di probabilità di guarire, li abbiamo visti morire di morbillo. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è che questo paese è stato all'avanguardia nel passato nell'introdurre politiche vaccinali. Noi abbiamo debellato l'epatite B grazie al vaccino, l'abbiamo debellato prima di altri paesi. Il terzo argomento è che nel Regno Unito, io rapporti di lavoro costanti con il Regno Unito, l'offerta vaccinale è confrontabile alla nostra. Io sto per avere il mio settimo nipote a Londra. Quindi non è un argomento logico dire perché 10 o 12 o 13 come erano stati proposti all'inizio. Riflette la situazione del paese. Il secondo punto che lei, e credo fosse il primo che lei ha toccato, è quello della sfiducia nei confronti della comunità scientifica. Cioè pensare che sia in qualche modo, diciamolo chiaramente, un complotto, che ci siano degli interessi economici, no? Questa è l'accusa che addirittura maggiore. Che d'improvviso salire nell'agenda pubblica sia perché vogliono testare in Italia dei vaccini. C'è delle cose... Ecco, ma io penso che di nuovo dobbiamo... è importante che noi si condivida i dati. Il primo dato è che a proposito degli aspetti di tipo economico, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che $1 investito in vaccini significano $10 risparmiati in cure. Possiamo fare un esempio concreto. L'esempio concreto è quello dell'epatite B. Il vaccino contro l'epatite B costa al Servizio Sanitario Nazionale 16 euro. La cura di un paziente, per fortuna, è praticamente sparita. La cura dell'epatite B costa circa 4.000 euro. Poi c'è la cura, chi ha l'epatite B diventa un'epatite cronica. Molti vanno incontro a insufficienza epatica e quindi hanno la cirrosi. La cura di una cirrosi, a seconda dello stadio, varia dai 500 ai 6.000 euro. Poi molti di questi hanno bisogno di un trapianto. Il trapianto costa 90.000 euro. Poi molti di questi hanno un cancro del fegato e qui i costi sono stratosferici. Quindi se noi guardiamo per ciascuna delle patologie che stiamo guardando, i vaccini fanno risparmiare. Ripeto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che noi se investiamo $1 in vaccini ne risparmiamo 10. L'altro, che si può dire in un altro modo, le case farmaceutiche converrebbe che fossero inefficaci perché ci guadagnano di più con i farmaci per le cure, tanto per essere chiaro. Converrebbero persone malate da curare più che brutalmente persone, diciamo, per cui c'è una prevenzione alla malattia. L'altro, dal punto di vista, diciamo così, come paese, io soffro di questa situazione perché ci dimentichiamo di quello che questo paese ha fatto in questo settore, ha fatto e sta facendo. Noi siamo un paese che ha di grandi innovatori nel settore della immunologia e della vaccinologia. Voglio ricordare che Rino Rappuoli, nessuno lo ricorda, poche settimane fa ha avuto il Gardner, che è uno dei premi più importanti dal governo canadese per lo sviluppo del vaccino contro il meningococco di tipo B, che nessuno riusciva a fare. Noi siamo, quindi, abbiamo dato dei grandi contributi di innovazione. Siamo dei grandi produttori di vaccini e qui voglio ricordare che Sebin, quando ha sviluppato il suo vaccino, lo ha dato a costo zero da produrre a un'industria italiana, si chiamava Sclavo. Sclavo, sì. E questo paese dovrebbe avere l'orgoglio di avere protetto contro polio miliardi di persone. Infine, io non sono un economista e quindi voi dovete verificare questo dato, ma per quanto ho letto io, i dati ufficiali, noi esportiamo 6 volte rispetto a quello che importiamo nel settore dei vaccini. Però, quindi mi spiace che non ci sia fierezza per il nostro contributo. Professor Mantovani, ma lei allora come si spiega? Perché ci ha dato tanti dati, tante citazioni, tanti numeri. Però il fenomeno lo vede anche lei, cioè migliaia di persone che si sono radunate a Pesaro, che poi ci scrivono anche in modo molto, insomma, con questa tecnica del mail bombing, a dire: visto che nessuno parla, siete obbligati, non avete la schiena dritta, siete dei servi, siete, no? Gli argomenti che puoi immaginare. Ecco, come si spiega che c'è questa anche abbastanza diffuso scetticismo nei confronti ma dei vicini? Mi chiedo innanzitutto cosa posso fare io e cosa avrei potuto fare io. Per esempio, il fatto che ci siano medici che sono dubbiosi, o in qualche caso abbiamo avuto alcuni casi che fanno propaganda contro i vaccini. Io insegno in una facoltà di medicina, Humanitas University, e mi sono messo a insegnare in modo più attento nel mio corso, anche se non sarebbe argomento stretto del mio corso, il tema dei vaccini. Quindi chi insegna in università ha un obbligo, un dovere morale di insegnare di più. Abbiamo un obbligo di comunicare. Io penso poi che un altro fattore, oltre alle menzogne che ho detto, che in rete si trovano facilmente, se sì, andiamo in rete è chiaro, siamo sommersi di menzogne sui vaccini, e dobbiamo dirlo chiaramente, sono menzogne. L'ultima è la connessione fra vaccinazione contro epatite B e sclerosi multipla, è una totale menzogna. Un'altra cosa che io percepisco attraverso, io ho 4 figli, 6 nipoti, 1/7 in arrivo, che percepisco attraverso i miei figli, è che si è diffusa la credenza che faccia meglio al sistema immunitario e al nostro organismo ammalarsi rispetto a vaccinarsi. Sì. E non c'è niente di più sbagliato, nel senso che tutti questi germi sono dei professionisti nel sopprimere le difese immunitarie. Utilizzo il vaccino e la malattia, il morbillo, sì, come esempio. Sì. Il morbillo causa una soppressione del sistema immunitario che dura fino a 2 anni. Sapevamo, e purtroppo abbiamo avuto la conferma negli ultimi 6 mesi, il 30% di chi si ammala di morbillo va in ospedale perché si ammala per altri agenti infettivi. Ecco, questa credenza che si è diffusa, che è la sbagliata, malattia faccia meglio del vaccino, è sbagliata. Il miglior allenamento per il sistema immunitario è il vaccino. Sentiamo, professor Mantovani, perché come immagino ci sono tantissimi ascoltatori. Ci chiama Claudio da Roma. Buongiorno, Claudio. Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno. No, sentivo il professore, io penso, ho 64 anni, fino a poco fa pensavo che quando ti prende una febbre, cioè aumenti le difese immunitarie e per i bambini addirittura aumenti la crescita. Questa chiaramente sarà una fesseria, perché il professore mi ha detto il contrario. Però io chiamavo per dire questo, come cittadino non è che mi meraviglio, ma purtroppo noi restiamo all'oscuro di tutto, no? Ho letto stamattina su un giornale che è Fatto Quotidiano, sì, a pagina 3. Nel 2014, in, sì, una soffitta della Casa Bianca, la Lorenzin, con Sergio Pecorelli, che adesso è un funzionario a livello, sì, statale, e con il sottosegretario americano alla salute, hanno deciso che noi italiani, insieme al Portogallo, dovevamo essere cavi rispetto a alcuni vaccini, e si parlava appunto pure del problema morbillo. Io non so, resto stupito, perché ecco, gli immigrati, è stato deciso in un altro angoletto, nessuno sapeva, ce l'ha detto l'altro giorno la radicale, sì, che dice, ma come, Renzi lo sa, l'ha fatto lui, noi italiani non sappiamo mai. No, ma è chiaro, Claudio, cioè lei dice, come sulla questione migranti, non vorrei, come scrive oggi il Fatto Quotidiano, pagina 3, racconta di un accordo fatto alla Casa Bianca tra il sottosegretario della salute americano, la Lorenzin, per come dici tu, Oscar, no? Quella che si è diffusa, come dire, utilizzare l'Italia e anche il Portogallo come cavie per i vaccini sul morbillo. Questo è quello che racconta anche il Fatto. Professor Mantovani, ovviamente io non so se ci siano stati incontri, quindi io rimango sui dati. Non si sta facendo nessuna sperimentazione, cioè questi sono vaccini, l'esavalente è usato in tutto il mondo. Il vaccino contro il virus del papilloma, che causa 250.000 morti al mondo e 1.000 morti all'anno in questo paese, è stato utilizzato da 80 milioni di persone in tutto il mondo. Quindi non si sta facendo. Voglio ricordare che, a proposito di morbillo, prima che venisse introdotto il vaccino contro il morbillo, avevamo circa 300 morti all'anno di morbillo. Questi non sono vaccini sperimentali, questi sono vaccini che sono stati utilizzati in decine di milioni o centinaia di milioni di persone, quindi non c'è nessuna sperimentazione. Se posso fare un commento, sì, sulla febbre, l'ascoltatore ha ragione, nel senso che la febbre è un meccanismo di difesa. Io sono un immunologo, quindi la febbre dobbiamo controllarla quando ci crea dei problemi, ma dobbiamo sempre ricordare che è anche un meccanismo di difesa. Va bene, noi dobbiamo dare un attimo di pubblicità e ringraziamo il professor Alberto Mantovani per essere stato con noi, ricordiamo, direttore scientifico di Humanitas, poi appunto ha scritto anche questo libro Immunità e vaccini per Mondadori, e chiunque volesse documentarsi. Però posso, ecco, dire una cosa? Come no? A me non piace giudicare i colleghi. Il pezzo dice una cosa, il titolo ne dice un altro sul Fatto, e il titolo induce il nostro ascoltatore a pensare che ci sia nell'angoletto, come ha detto lui, hanno affidato all'Italia una sperimentazione. Caro ascoltatore, se legge il pezzo di Luciano Celaria, troverà l'indicazione del fatto che c'è stata una riunione su chi coordina il gruppo mondiale di 40 paesi attivo sui temi della sensibilizzazione vaccinale. Una ordinarissima attività di coordinamento internazionale delle autorità sanitarie. È chiaro, mi spiace amici del Fatto Quotidiano, il vostro titolo oggi è gravemente scorretto e infatti guarda che cosa induce. Perché nell'articolo non c'è scritto di una macchinazione per testare in Italia formule vaccinali sperimentali. Invece il titolo sembra che l'Italia sia una specie di terreno di coltura per sperimentare. No, c'è un coordinamento internazionale tra decine e decine di paesi per alzare la sensibilità laddove la copertura è più bassa degli obiettivi che sono quelli della letteratura scientifica internazionale. Infatti anche perché gli Stati Uniti erano preoccupati anche per il loro turismo in Italia. Comunque andiamo un attimo alla pubblicità, un po' in ritardo ma ci siamo, eccoci qua. State ascoltando un programma offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci qui caro Oscar, tanti ascoltatori, comincerei da Enrico da Udine, buongiorno Enrico. Buongiorno a voi e grazie per l'opportunità. Sì. Dunque, velocissimamente per rispetto anche per gli altri, voglio solamente dire che perché oggi bisogna essere dubbiosi sulle vaccinazioni. Allora, primo, il postulato del 95% è un postulato totalmente antiscientifico, in quanto, lo dico poi, è una cosa da un dati da poter controllare, in Italia entrano 50 milioni di turisti ogni anno. Di questi 50 milioni moltissimi sono di aree che non hanno le nostre stesse vaccinazioni, se fosse vero il postulato noi dovremmo essere tutti contaminati e dovremmo chiudere le frontiere, questa è la prima cosa. La seconda, basta andare a vedere, non voglio citare le case farmaceutiche, ma andare a vedere perché dobbiamo mettersi o inocularci dei batteri di case farmaceutiche condannate per frode mazzette in mezzo pianeta. E con dei reati gravissimi, ma gravissimi. Il terzo punto è il costo. C'è gente che va in India a comprare farmaci a 300 euro venduti in Italia a 80.000 euro, una vergogna sociale che non ha paragoni con null'altro. Quarto, l'informazione scientifica è data esclusivamente dalle case farmaceutiche, quindi il controllato è anche il controllore. Ecco, ditemi voi se oggi si può fidare di questa gente. La ringrazio molto. Credo che con questi quattro punti lei si fida zero. Io mi fido 100, ho due figli, non mi sento di metterli in pericolo di vita nel vaccinarli. Oscar ne ha due di figli, tutti sottoposti, sono opinioni, cioè non è che io l'ascoltatore, sono opinioni quelle personali, i dati di fatto, certo. Per i quali per esempio se fosse vero la cosa saremmo tutti contaminati. Non sta in piedi statisticamente. L'ascoltatore da Udine non è che lo convince nessuno, ma come quelli che ci hanno già chiamato insultandoci ovviamente. Vabbè, Claudia da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Io racconto un'esperienza personale, anche se mi dispiace farlo, ma io sono a favore delle vaccinazioni obbligatorie perché ho perso una bambina in gravidanza perché ho contratto la varicella e qui non si dice che ci sono dei virus che sono teratogeni, cioè che provocano malformazioni alle persone che aspettano come me un bambino. E mentre ero in ospedale perché ho avuto un aborto spontaneo, accanto a me c'era una signora che poverina aveva avuto una bambina, non si sapeva se la bambina fosse sorda o cieca perché lei aveva contratto il morbillo in gravidanza. Io ho avuto un figlio e l'ho fatto vaccinare per rosolia, morbillo, orecchioni e non solo per se stesso, ma proprio ricordando queste esperienze. Sì, cioè la vaccinazione è come non dover bere quando si guida, perché non lo si fa solo per se stessi, lo si fa per una tutela collettiva. È chiaro, quindi questo è il principio della vaccinazione, della salute pubblica. No, ci dispiace poi Claudia che le abbia dovuto voluto raccontare questo suo dramma personale. Ovviamente la ringraziamo però per questa testimonianza. C'è Giampiero da Pordenone, buongiorno. Salve, buongiorno. Allora io faccio una piccola premessa. Io e mia moglie abbiamo due lauree a forte connotazione scientifica e tre bambini, tra altre cose. Mia moglie è laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche, 110 lode, bacio accademico, quindi lungi da noi, voglio dire, dubitare del metodo scientifico, no? O quantomeno dubitare che la pratica dei vaccini non abbia salvato almeno una parte dell'umanità. Questo è assolutamente vero. Quello su cui però a me piacerebbe porre l'attenzione è una questione etica basata sui numeri, ovvero praticamente diamo delle statistiche che sono quelle delle complicanze da vaccinazione, no? Passatemi i numeri, leggevo l'altro giorno su siti certificati che il vaccino per il morbillo ha cosa? Una su 10 milioni di somministrazioni può comportare una grave encefalopatia permanente. Allora io mi chiedo, nel 2017, per il bene della comunità, cioè per salvare quei pochi, e mi dispiace per loro, magari immunodepressi, che possono avere problemi da complicanza grave del morbillo, dobbiamo già a priori sacrificare un bambino su 10 milioni? La faccio finire, però lei ha fatto giustamente quella statistica che ha citato, è uno su alcuni milioni. 10 no? milioni. Allora, i poveri immunodepressi sono solo in Italia diverse migliaia. L'ordine di grandezza che le dà la risposta è quella, però. Lo sa meglio di me. Sì, ma io sto ragionando sulla decisione, cioè io devo poter decidere per mio figlio, capisce? Nel senso che se io capisce che neanche a Sparta buttavano giù dalla rupe No, adesso non faccio il paradosso, nessuno butta giù dalla rupe nessuno. Lei ha detto, e io la seguo e le credo, le lauree, la mentalità scientifica, eccetera, e ha chiesto, da una parte c'è un fattore di rischio su siti certificati di X per milione, dall'altra c'è il fattore di rischio di diverse decine di migliaia di immunodepressi in Italia. La risposta, ripeto, alla sua domanda è già data e l'ha data lei. Ma poi non esiste Giampiero, non esiste alcuna somministrazione di farmaco che non abbia delle controindicazioni, cioè i farmaci, ma questo lo dice chiunque ed è noto, è una banalità, fanno anche male, voglio dire, non è che fanno solo bene e curano, no Giampiero? Quindi le controindicazioni ci sono per i vaccini, ma come certo, per qualsiasi farmaco al mondo. Nessuno mi obbliga a prendere l'aspirina, nessuno mi obbliga ad assumere l'antibiotico. Ma ho capito, ma non è l'antibiotico. Ma se lei ha una malattia grave, cosa che nessuno augura, se non prende dei farmaci rischia di morire. Ma quei farmaci che le curano la malattia, quel vaccino non ha lo stesso rilievo di copertura dell'aspirina. Anche qui la risposta se l'è appena data lei. Punto. Comunque, insomma, i farmaci servono a curare a malattie anche gravi, non stiamo parlando dell'aspirina per la febbre, ma è chiaro che nel momento in cui uno cura da malattie gravi, prende dei farmaci che hanno delle controindicazioni che fanno anche male, capisce Giampiero? Ma qua stiamo a priori decidendo per salvare. Lei ha fatto due considerazioni. Persone la risposta ammalate, non le tiene conto e dice che a priori. Chi è a priori? Uno su 10 milioni. Sì, per forza, perché se obbliga a vaccinare mio figlio, io devo mettere mio figlio dentro la statistica dei possibili. Delle possibili complicanze. Ma scusi, ma Giampiero, è come se lei dice di fronte a una malattia grave un medico le dà un farmaco dicendo le dà un farmaco dicendo guardi che se non prende questo farmaco lei si aggrava e muore. Nel momento in cui le dà un farmaco le sta dando un qualcosa che la guarisce ma ha delle controindicazioni. Che fa lei? Prende l'aspetto positivo che la guarisce o dire il medico mi sta avvelenando con il farmaco? No, io credo che lei dica mi sta curando. La moglie ha atteso il terzo figlio, data la sua età e data la statistica, abbiamo deciso di fare l'esame dell'amniocentesi, ok? Perché statisticamente in quel caso le complicanze della gravidanza erano superiori alle complicanze della possibile esame, perché è un esame invasivo che potrebbe essere pericoloso. Sì, capisce la nostra posizione? Mi hanno dato un dato certo. Su quel dato, mia moglie, abbiamo deciso la terza gravidanza, abbiamo fatto questa operazione. Anche quindi, qui ci sono dei dati certi, no, appunto, uno su 10 milioni. Se mio figlio si ammala, il mio medico mi dice: tuo figlio è ammalato, guardi questo. Alto là, prendo subito il farmaco perché prendo la decisione. Che fa male. Il farmaco che fa male. Non è ammalato di morbillo, dovrebbe vaccinarsi per salvaguardare quei possibili immunodepressi. È una questione di salute pubblica. È questo che lei replica con la libertà di scelta, che si traduce in indifferenza alle conseguenze. E di qui viene l'obbligo, vede? Anche di solidarietà. Proprio questo è il punto. Di qua viene l'obbligo. Tutto qua. Comunque, cioè, c'è anche una solidarietà. Se ci sono degli immunodepressi e vanno protetti, insomma, la salute pubblica guarda non all'interesse singolo, ma all'interesse generale. Comunque, il tema è aperto. Noi rimarremo sul tema medicina etica e torneremo sul caso di Charlie Gard tra poco, caro Oscar. Dopo il giornale radio, stiamo in onda fino alle 9:30. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, alle 9 e 5 minuti siamo qui, caro Oscar. Vedi che il tema vaccini è molto, molto scaldato. C'è Andrea da Bologna che ci chiama. Buongiorno. Buongiorno, chiamo da Bologna. Io sono, dal punto di vista professionale, sono un professore, quindi una persona che ha un compito educativo. Chiamo perché mi ha toccato molto da vicino l'aspetto di disinformazione che è stato fatto a diversi livelli, sia per quanto riguarda la polemica sulla vaccinazione, sia la polemica contro la vaccinazione. Cioè, di base c'è un concetto nella strategia della vaccinazione che dovrebbe essere considerato nel suo aspetto acuto e nel suo aspetto di sviluppo temporale. L'aspetto acuto vuol dire: nel momento in cui c'è un'emergenza bisogna vaccinare, perché bisogna vaccinare, proteggere la popolazione. Sì. Nel momento in cui non c'è un'emergenza possono essere adottate delle strategie di principio diverso. Vi ricordate per esempio quando in passato si parlava di immunizzazione rispetto ai veleni? Era pratica normale assumere piccole dosi di veleno distribuite nel tempo. Sì. Che creavano una sorta di immunità, la famosa mitridatizzazione. Esatto, mitridatizzazione. Ma e che cosa dove vuole arrivare? Voglio arrivare al punto che esistono delle pratiche che possono essere utilizzate per indurre un'immunizzazione. Si chiamano per esempio pratiche nosodali, esistono da decenni. Esiste per esempio in Canada una sperimentazione in atto per dimostrare l'efficacia a livello scientifico di queste pratiche. Sì. E non vengono per niente prese in considerazione. Andrea, no? È confuso. Cioè, lei propone l'evidenza scientifica accumulata nei decenni con i vaccini rispetto a una sperimentazione in atto. Si è risposto da solo, professore, si è risposto da solo. Ma io mi limito ad ascoltare, non aggiungo niente di mio, non ho il titolo, faccio informazione, però faccio informazione con un criterio, per cui il criterio è: lei ci ha detto, da una parte c'è la disinformazione, poi riconosce che c'è l'evidenza di decenni, dall'altra ci dice c'è una sperimentazione che non viene considerata, punto. Vedi, poi succedono queste cose. Marco da Vigevano: non parlate mai della relazione tra autismo e vaccini, cosa che sembrerebbe sia stata provata come scientificamente. No, no. Ecco, Marco invece proprio si deve informare, nel senso che non esiste alcuna prova scientifica, anzi non solo. Colui che anni fa portò una presunta prova scientifica di relazione autismo-vaccini è stato poi radiato, in quanto ha palesemente inventato, radiato dai giornalisti Wakefield, ed è stato palesemente, ha palesemente e coartatamente fatto delle ricerche false, non scientifiche, ed è stato radiato per questo. Però ci scrivono dicendo sarebbe stata provata scientificamente e voi non ne parlate. Andiamo oltre. Successivo è: siccome voi non ne parlate, non vi stimo più come giornalisti. Ma è reciproca la cosa. Comunque, Maurizio da Roma, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, premetto che non sono contrario alle vaccinazioni, però mi pongo delle domande semplici. Le nostre madri 50 anni fa erano delle criminali quando ci facevano mangiare nel piatto del fratellino contagiato? Questa è la prima. Forse erano ignoranti, lo dico con il massimo rispetto, scientificamente parlando, e portavano avanti delle credenze popolari. Ma no, non erano credenze, erano fatti reali, non erano credenze popolari. Ci facevano mangiare nel piatto del fratellino contagiato. Ma lo sa quante persone si mettono delle collanine d'ambra perché pensano che questo faccia crescere i denti? No, guardi che sono migliaia di persone. Le usiamo sempre quando ci va bene, quando ci va male no. Non è una collanina d'ambra, cioè farci mangiare un piatto non è mettersi una collanina. Secondo me è un esempio sbagliato. Vabbè, questa è la prima. Okay. La seconda, è possibile che nel 2017, quando facciamo passi da giganti per curare il tumore, il cancro con la chemio, sempre più mirata, io sono uno di questi tra l'altro, non abbiamo delle medicine, dei rimedi per curare delle malattie come la scarlattina, il morbillo, la pertosse, queste cose vaccini qui, che sono, diciamo, malattie, non voglio dire secondarie, però vabbè, non so che termine usare. Terza domanda, possibile che paesi come la Francia, dove mi sembra che è obbligatorio, sono 4 vaccinazioni, l'Inghilterra, dove mi sembra siano 3, correggetemi se sbaglio, questi paesi sono meno accorti sanitariamente di noi? No, che, sono più sensibili che... dell'opinione pubblica, perché hanno i tassi di copertura maggiore, tutto qua. Non ho capito. I paesi che hanno l'estensione coatta sono quelli in cui cade la copertura, perché la gente inizia ad avere dei dubbi e dice io non lo faccio per mio figlio. Ecco dove bisogna alzare la copertura coatta. Lo dice un libertario individuale, capisci? Io sono un individualista libertario che però ferma la concezione sacra del mio diritto naturale individuale se metto a rischio i figli degli altri, e allora io lì mi fermo, capisci? Quindi quando vi dicono verissimo, negli altri paesi non ci sono, andate a guardare le coperture degli altri paesi, tutto qua. Non c'è un programma illiberale di massa, questo è un paese liberale per tante cose, ma su quello che sta avvenendo sui vaccini probabilmente la questione è un po' diversa, per così dire. Comunque devo dire, tante telefonate, c'è anche messaggi che dice il livello anche di tante telefonate, insomma, fa capire sul tema vaccini quale profonda anche, insomma, situazione drammatica viviamo, sì, no? Sull'informazione da questo punto di vista. Noi però dobbiamo affrontare un altro tema. Vogliamo salutare due ospiti, a cominciare dal radicale Marco Cappato. Buongiorno Cappato, ben ritrovato. Buongiorno a voi, grazie. Che si ritrova a questo punto. L'altra volta ci avevamo sentiti dicendo era stata chiesta l'archiviazione per dal il caso ministero. Dal pubblico ministero, ma dal caso il giudice di DJ Fabo, ma il giudice invece l'ha mandata a processo, cioè non dovrà attraversare un processo, un procedimento legale per la vicenda di DJ Fabo accompagnato in Svizzera a fare l'omicidio assistito. Cappato, quanto rischia? Il codice penale del 1930, in piena era fascista, punisce da 5 minimo anni di carcere a 12 anni di carcere massimo l'aiuto alla morte volontaria, al suicidio assistito. E questo è dal punto di vista legale. Con noi c'è anche Massimo Gandolfini, che presiede il comitato Difendiamo i nostri figli. Buongiorno professor Gandolfini, ben ritrovato. Buongiorno, grazie per la chiamata. Cappato, ovviamente dal punto di vista processuale vedremo, insomma, non vorrà dire nulla, vedremo in aula, cioè, se l'aspettava dopo che il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione? Ma è una questione di interpretazione, perché il codice penale è molto chiaro, poi c'è anche la Costituzione e alcune libertà fondamentali. Nel 1930 un caso come quello di Fabo non ci sarebbe mai stato. Oggi sono decine di migliaia le persone che si trovano in condizioni di dovere affrontare e quindi di volere scegliere rispetto a una sofferenza insopportabile, a una malattia irreversibile. È cambiato il modo di morire nel nostro paese, ma il Parlamento non ha ancora avuto il coraggio di fare delle regole che stabiliscano a quali condizioni, sì, una persona possa scegliere di andarsene senza soffrire. Gandolfini, lei questa vicenda se la ricorda ovviamente come l'ha vissuta. Che pensa di un magistrato, di una corte, di un processo nei confronti di Marco Cappato, che ricordiamo ha accompagnato questo ragazzo a fare il suicidio assistito in Svizzera, laddove in Svizzera il suicidio assistito è consentito dalla legge in alcune condizioni particolari? Beh, innanzitutto penso che, al di là della simpatia che nutro per Marco Cappato, ci siamo incontrati varie volte, per cui sul piano umano c'è una sincera simpatia, credo, perlomeno da parte mia, ma credo reciproca. A parte questo, penso che il giudice deve fare il suo mestiere, cioè deve vedere qual è l'ordinamento vigente e, in base all'ordinamento vigente, vedere se un cittadino italiano ha messo in atto dei comportamenti che trasgrediscono l'ordinamento vigente. Quindi, se il giudice fa il suo mestiere, deve fare il suo mestiere. Ma dal suo punto di vista, usciamo dall'idea del giudice, cioè è censurabile dal suo punto di vista, non so, mettiamo etico, sì, il comportamento. Io dal mio punto di vista credo che ogni forma di istigazione di aiuto al suicidio sia dal punto di vista etico assolutamente censurabile. E poi, ripeto, dopo c'è anche tutto il lato giuridico. Io penso che una persona vada aiutata fino allo stremo, ma nella chiarezza che va accompagnato alla morte naturale e non a determinarne la morte. Del resto, guardi, è un po' tutta la nostra anche attività medica che cammina su questi binari. Lei provi a pensare quante volte in un pronto soccorso ci arrivano persone che hanno tentato il suicidio, e non per questo noi siamo legittimati a non cercare di salvarle e di poterle aiutare soltanto perché hanno dimostrato che volevano morire. Oscar, qua secondo me c'è un punto interessante, dice Gandolfini, va aiutato fino all'estremo. Io credo che sia Gandolfini per un verso e sia Cappato però per il verso opposto. Forse Cappato pensa proprio di averlo aiutato fino all'estremo, DJ Fabo, nel portare avanti la volontà che aveva, che era quella di porre fine alla propria vita. No? Sì, probabilmente ci dà un'interpretazione diversa con uguale passione un concetto molto importante, cioè quello della dignità. Io penso, come Cappato, che sia giusto, per la mia convinzione personale, nutrire un mio diritto individuale e chiedere che l'ordinamento lo riconosca, ad affermare le condizioni nelle quali, a fronte di patologie e di trattamenti di un certo tipo, io decido, dichiaro prima e decido e voglio che sia rispettato, se l'ordinamento accoglie il mio punto di vista, io spero che sia civiltà accoglierlo, che la mia dignità preservi la mia facoltà di fermare l'accanimento inutile, che mi genera sofferenza e che è alieno dalla mia concezione di una vita dignitosa. E credo che Cappato abbia in questo sposato e compiuto una missione umanitaria con DJ Fabo, che così la pensava. Del resto non mi sfugge che tante persone come Massimo Gandolfini nutrono un'idea della dignità della vita, quindi stiamo parlando opposta, di un concetto opposta, non lo so, diversa, e lo facciano con altrettanta profonda convinzione. Quindi io non sono capace di usare se non un tono di grande rispetto. E quello che chiedo loro è di... Gandolfini lo ha fatto subito, ha detto io la penso così, poi c'è la giustizia e l'ordinamento. Infatti, per esempio, io penso che il processo sia utile, il processo che il giudice d'udienza ha scelto al posto della richiesta al PM, perché il processo consentirà in ogni caso di capire l'ordinamento come valuta non queste due idee opposte, ma le idee della dignità della vita e della morte rispetto ai trattamenti e alle malattie del tipo di DJ Fabo. Ecco, secondo me è comunque utile, abbiamo tutti da imparare, se sappiamo preservare appunto il tono del grande rispetto. Non so come la pensa Gandolfini, si sente toccato da un giudizio improprio dalle mie parole? No. Assolutamente, trovo che tutto quello che lei ha detto è stato detto con estremo rispetto ed estrema delicatezza. Mi permetto di aggiungere un passaggio, cioè il dibattito a livello, non so se di aule, dei tribunali, ma soprattutto a livello parlamentare, deve portare alla fine a una, diciamo, a un risultato finale. Cioè, bisogna decidere se la legge deve tutelare soprattutto il principio di autodeterminazione, che pure è un sacrosanto principio democratico, oppure deve tutelare maggiormente, come diciamo così, non disponibile alla volontà del singolo, il bene della vita. La questione si gioca su questi, sì, questi sì, due passaggi. Sì, sì, sì. Vale di più l'autodeterminazione, quindi è da tutelare, o vale di più il bene della vita? Questo è il tema che credo sia il tema di fondo. Beh, che per Gandolfini è indisponibile, no? Cappato, sì. Questo è il punto. Tra l'altro, Cappato, replichi su questo e anche sull'idea se lei si sente di avere aiutato fino all'estremo DJ Fabo. Ovviamente uso l'espressione usata da Gandolfini, che però la usava nell'idea, certo, di preservare la vita, non certo di porne fine. Allora, ovviamente la mia è un'azione di disobbedienza civile e quindi sul processo sono d'accordo, massimo rispetto per la decisione del giudice, ho affrontato pubblicamente questa situazione proprio perché pubblicamente anch'io ritengo si debba arrivare a un'assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni. Mi permetto di osservare nella visione di Gandolfini, che rispetto, qualcosa di, diciamo, di eccessivamente materialistico, la vita, La vita non è semplicemente la vita biologica del sopravvivere, addirittura si parla di fino alla morte naturale, magari usando questa espressione per persone che sono di fatto tenute in vita artificialmente con complessi macchinari. La vita, secondo me, non è un concetto diciamo scindibile da quello di libertà, cioè non è che c'è da una parte l'autodeterminazione e dall'altra la vita. La vita, come l'amore, come tutte le cose più drammatiche, importanti e belle della nostra esistenza, non può che andare insieme alla libertà. Nel momento in cui Fabo si trovava e si considerava vittima di una violenza nel non poter andarsene senza soffrire, è chiaro che proprio noi, come Associazione Luca Coscioni, che ci battiamo per la ricerca sulle staminali, per i diritti delle persone con disabilità, per i diritti di cura, eccetera, nel momento in cui tu consideri quelle cure una violenza sul tuo corpo, è un dovere aiutarti a smettere di soffrire. Questo è il ragionamento che io ho fatto in assenza di un Parlamento che persino sul testamento biologico adesso ha buttato la palla a fine luglio, che quindi andrà dopo l'estate, cioè c'è una corsa a scaricarsi dalla responsabilità di decidere. Questo poi si vedrà. Tra l'altro è singolare anche che, voglio dire, queste idee, su queste idee PM e giudice abbiano avuto due diverse, perché nella richiesta di archiviazione i PM parlavano appunto facevano i discorsi e le hanno messe nero su bianco, che ci però, fa Marco Cappato, però c'è un giudice, però, come vedi, la pensa in modo diverso. Anche nel mondo del diritto è aperto alla questione, perché l'ordinamento su questo, siccome la legge, come ricordava Gandolfini, il passo avanti chiaro non l'ha fatto rispetto al testo del codice penale fascista. Ci sono le interpretazioni dei, eccoci dei qua, è che la funzione suppletiva della giurisprudenza evolutiva è da sempre, no? Nasce su questo terreno. Ma tra l'altro abbiamo tre minuti per chiudere, visto che si parla di magistrati, anche se è una vicenda completamente diversa, ma che è sulle prime pagine dei giornali, quella in Inghilterra di Charlie Gard, questo bambino gravemente malato, e oggi Michele Serra fa bene a scrivere su Repubblica, sì. Chiariamo che non c'è chi vuole difendere la vita e chi è contro la vita. Eh no, ma perché sembrano i due schieramenti. Gli equivoci si ingenerano. Gli equivoci si ingenerano, mentre qui stiamo parlando di un bambino poverino che è destinato a una morte certa. E allora, però, l'altro tema che effettivamente mi interroga tutti noi, anche a me da genitore, anche a te Oscar, ma perché si è arrivata a questa contrapposizione per cui ci sono dei genitori che dicono ma insomma il bambino è nostro, noi vorremmo tentare e più che comprensibile come genitore anche noi, io ho detto sto zitto su questo, perché è chiaro che anch'io al posto dei genitori dice fatemi provare qualunque sperimentazione, sono andati dal giudice a dire ma se fosse suo figlio, caro giudice, è giusto o no che sia il giudice, cioè l'ordinamento, a porsi il problema della tutela del diritto del bambino che lui non può far valere a evitare sofferenze inutili. Lei Gandolfini, che si è fatto un'idea su questo caso britannico? Sì, dal mio punto di vista è un caso drammatico, non soltanto ovviamente per la sofferenza che possiamo soltanto lontanamente immaginare, che è quella dei genitori con il loro bambino, che comunque certamente dal punto di vista almeno tecnico, scientifico, è destinato a sopravvivere ancora per un tempo breve, ma è gravissimo soprattutto dal mio punto di vista per questa entrata a gamba tesa dei giudici che di fatto stanno decretando una sorta di vera e propria eutanasia di Stato di memoria. Sono i medici tragica. Cioè i giudici non hanno fatto altro che certificare delle richieste esplicite dei medici che parlano di accanimento terapeutico giorno dopo, ogni giorno che passa. Poi una sentenza di un tribunale, quella sentenza deve diventare operativa. E questa è una cosa veramente, come dire, indecifrabile. Innanzitutto perché è contro il parere dei genitori, che quindi devono come dire, hanno il diritto della patria potestà. I genitori giustamente rivendicano la possibilità, fosse anche una su un miliardo, di provare a vedere se qualcosa è possibile, e invece risulta che un giuria esterno ha già emesso la sentenza dicendo questo bambino è condannato a morte, per cui sospendiamo tutto e interrompiamo nella vita. Questa si chiama, dal punto di vista proprio tecnico, è una vera e propria presa di posizione eutanasica imposta dall'esterno contro quindi anche il parere dei diretti interessati, e quindi è una pagina che è davvero tragica, non soltanto per l'Inghilterra, eccetera, ma direi per tutta la società civile. So, Cappato, su questa un'idea, voi che siete per l'eutanasia legale, in Italia è un caso diverso. Ma su... l'eutanasia non c'entra nulla, perché l'eutanasia si basa sulla scelta della persona. Chiaro. Non è ovviamente questo il caso. Su Charlie Gard i medici hanno indicato questa strada non solo o tanto perché non ci fossero, non ci siano possibilità di guarigione, ma per la sofferenza del piccolo. Allora, io non sono un medico, non sono lì, penso sia sbagliato prendere posizioni politiche di schieramento su un caso del genere. Bisogna però spiegare che l'elemento è proprio questo: se è vero, come sostengono i medici, che qualsiasi tentativo di terapia che oggi non ha la possibilità, sul piano scientifico, di guarire questo bambino, in più provoca delle sofferenze che non si possono imporre a un bambino, allora in questo caso bisogna staccare. È chiaro che in presenza di un parere così fortemente contrario dei genitori bisognerebbe essere lì, perché la cosa più importante sarebbe che ci fosse un consenso, un'alleanza su questo. Questo è il punto, è il punto che crea proprio la diatriba forte, cioè che genitori e medici magistrati sono proprio divisi. In ogni caso, forse oggi ci sarà questa sentenza, o domani devono presentare nuove prove di validità scientifica della cura sperimentale che vorrebbero fare per il loro figlio. Caro Oscar, ci dobbiamo fermare. Allora, tutti quanti, noi siamo tutti convocati alla festa, perché tornano le province in Sicilia a votare, votano a favore Forza Italia e PD, la grande intesa nazionale per salvare l'Italia, fare più deficit, gonfiare il petto dicendo noi faremo il deficit che vogliamo, tanto pagate voi, cari cittadini. Pantaloni, voi pantaloni, è plurale. Dai, ci troviamo domani, grazie per essere stati con noi, a domani.